comprensibile questo oggetto. Ah, va bene. Se vuoi ti puoi, puoi tenerlo. No, vabbè, sì, sì, serve a qualcosa. Ora adesso alzo un pochettino, ah, magari perché prima. Buonasera, allora abbiamo chiesto a Emiliano Morreale, che anche lui ha conosciuto abbastanza Monicelli e che è secondo molti di noi il miglior critico cinematografico italiano rimasto sulla piazza, di introdurre e anche di aiutare me e Annetta con delle domande, ponendoci dei problemi, delle questioni sia sul rapporto diretto soprattutto di Annetta con Mario. Annetta è stata la sua confidente, segretaria, infermiera, di tutto per molti anni, sì, per molti e molti anni, e ha collaborato come aiuto a molte regie teatrali e cinematografiche di Mario. Insomma, da quando, per esempio, tu hai avuto rapporti con Mario? Il primo film che ho fatto era La doppia vita di Mattia Pascal con Marcello Mastroianni, che è un film per la televisione, e lì io facevo la volontaria in produzione. Però mi sono appolpata a Monicelli e abbiamo cominciato così a frequentarci fino a che poi... Ma che anno era? Era l'84. L'84. Quindi sono... Tanti. Non contiamo. Quasi. Allora, Emiliano, tu gestisci te e poi sì, noi. Questo, guardando questo libro, che poi è quello di cui si parla, che è una conversazione sostanzialmente tra Goffredo e Monicelli, fatta negli ultimi anni di vita di Mario, la cosa che viene fuori è che hanno anche notato con sgomento alcuni recensori è la radicalità e la del discorso. C'è una recensione, non mi ricordo di chi, credo della Bignardi, che diceva: certo, questi due ce ne sparano uno per uno così tranquillamente, con una libertà che qui lei è abbastanza sgomenta, insomma. Il microfono devo tenere... Ah, lo devo tenere più distante? Io sono abituato con i microfoni di una volta. Ma non posso parlare così che mi sentite tutti? No? O state registrando? No? E allora posso... Cioè, mi fa impressione. Allora questa cosa colpisce molto e colpisce, vabbè, in Goffredo meno, ma colpisce invece in Monicelli, che... insomma, nei decenni precedenti non era considerato un regista, come uomo sì, ma non un regista radicale, non un rivoluzionario del cinema, anzi uno che ha sempre dialogato col pubblico, che ha sempre avuto... Credo che invece questa sia stata una cosa di molto caratteristica dell'invecchiare bene di Mario, di diventare in politica, nella visione dell'Italia, eccetera, sempre più radicale. Tu hai notato questa cosa? Secondo te che cosa era dovuto questo suo essere sempre più presente? Cioè, era, come dire, un vecchio sempre più energico di anno in anno, fino agli ultimi mesi, viene voglia di dire, insomma. Sì, ma era sempre più disgustato di quello che lo circondava. Sentite, oppure ci vuole il microfono. Volete il microfono? Io la voce abbastanza... Comunque, se guardate... Ah, ecco! Vedono solo me. Scusate. E ci guardate... Ora sì. Allora, no, io credo che lui, a parte che ha avuto sempre, cioè è stato sempre impegnato, perché ha fatto dei grandi film, ha fatto la Grande Guerra, è stato, insomma, il momento in cui non era facile parlare sulla retorica della Prima Guerra Mondiale in quella maniera, ha fatto I Compagni, anche l'ultimo film suo, Le Rose del Deserto, era un film molto mirato nel voler svelare la guerra, chi la fa, i poveri come venivano mandati a morire per niente. La cosa era che forse prima aveva come una speranza che ci fosse la possibilità di cambiare qualcosa, improvvisamente ha come cominciato a rendersi conto che non aveva più speranze, non c'era nulla da fare, il mondo andava in una direzione che solo catastrofica, non si prendeva in mano radicalmente la questione. Si impantanava in una sorta così di vivacchio che non gli andava bene per niente. Questa non andava cosa, per niente. Tant'è vero che se n'è proprio andato, anche perché non ne fregava niente di stare in questa... credo che anche l'attenzione che hanno avuto poi i giovani per Monicelli, i giovani non della mia generazione, ma molto più giovani di me per Monicelli, sia una cosa che ha sorpreso molto, cioè la quantità di gente che lo ricordava su internet, andando anche a trovare dopo la morte, addirittura c'era una le Brigate Monicelli, si sono fondate questa sorta di gruppo un po' diciamo situazionista che erano le Brigate Monicelli. Ecco, Goffredo, secondo te perché, che cosa aveva da dire, perché lo sentivano molto più di registi più maestri con la M maiuscola, lo sentivano così vicino Monicelli, le ultimissime generazioni? Io credo che in parte sia dovuto al fatto che si è molto speso, si è molto concesso. Nel momento in cui non gli facevano più fare i film, non era più in grado di fare i film, lui si è trasformato in una sorta di personaggio, come dire, un predicatore vagante che ricorda agli italiani alcune basi del vivere civile e li mette di fronte alla coscienza di un disastro, insomma, che ricorda agli italiani cosa avrebbero potuto essere, cosa invece hanno voluto essere, cosa sono diventati. Da questo punto di vista io credo che Carmelo, bene, Pasolini e Monicelli sono gli unici tre uomini di cultura italiani che hanno domato letteralmente la televisione. Se vi ricordate, le apparizioni di questi tre personaggi erano sempre, quelle di Pasolini sono quelle più dimenticate perché sono più lontane nel tempo, però erano sempre più forti loro che il mezzo, no? Mentre tutti gli altri, tutti noi, anch'io è capitato qualche volta che ci sono finito in quel bussolotto, eravamo fagocitati, eravamo risucchiati dal mezzo, era il mezzo che era più importante di noi, loro proprio perché erano delle presenze radicali, perché avevano delle convinzioni molto forti, insomma, avevano delle personalità estremamente forti, delle convinzioni molto forti e delle cose da dire, no? E sono nella televisione scoppiavano, saltavano, facevano. No, Costanzo tremava di fronte a Carmelo Bene, non ci sono dubbi, e anche i vari, non so, nelle apparizioni televisive di Mario, che non si negava mai, proprio negli ultimi anni lo chiamavano a Budapest, andava a Budapest, lo chiamavano a Poggibonsi, andava a Poggibonsi, proprio era diventato come una sorta di testimone di quello che avrebbe dovuto essere, di quello che invece era, un accusatore pubblico in qualche modo, che ricordava agli italiani come l'Ulisse di Dante, insomma, che erano fatti per qualcosa di meglio che non per questa, no, questa bassa situazione in cui ci siamo lasciati coinvolgere negli ultimi 30 anni. Lui è stato in questo senso un regista fino a un certo periodo della sua vita, diciamo fino al Marchese del Grillo, fino a Parenti Serpenti, fino il fin degli anni 70, primi anni 80. Nel momento in cui non faceva più cinema è diventato un testimone di che cosa vuol dire essere un italiano di un certo tipo, no? La dignità di una storia, la dignità di un ruolo all'interno di una vicenda collettiva, di un'assunzione di responsabilità. Tutto questo fatto senza mai porsi come il vate, senza mai porsi, è pieno l'Italia di guru, no? Il mondo è pieno di guru, sono uno più disgustoso dell'altro, in questi 30 anni di predicatori ne abbiamo macinati a centinaia. Lui non era un predicatore, i predicatori in qualche modo cercano sempre la complicità, cercano sempre di convincerti e di in qualche modo di plagiarti, di portarti dalla loro parte. Lui no, proprio lui diceva secchissimamente, perché no, anche nel modo di parlare era estremamente asciutto, diretto. Insomma, diretto, immediato, diceva il suo parere con una durezza, con una sincerità nello stesso tempo che sbalordiva, perché non eravamo più abituati a questo tipo. E poi anche partecipava, perché andava alle manifestazioni. Per un anno prima di morire andò sui tetti di notte, non mi ricordo in quale occupazione c'era a Prenestino, e lui stava là in prima fila tutta la notte, si è fatto, convinto che poi come Molière sarebbe anche morto così, forse ci sperava anche di quello che era, insomma, per lui era terribile. A Genova si lanciò nel mezzo dei casini con la sua macchina presa, il G8, insomma. È andato pure in Palestina. In Palestina, sì. Insomma, come dire, ha fatto prima un cinema che era di dialogo con la realtà italiana molto stretto. Su questo io vorrei dire qualcosa, una piccola parentesi, cioè il cinema è stato negli anni, nel secolo scorso, il mezzo di comunicazione più importante che ci sia stato, il mezzo di comunicazione di massa, è stato un grande formatore della conoscenza delle masse analfabete che erano l'80% della popolazione mondiale, potevano avere della realtà, no? Attraverso il cinema anche moltissimi di noi hanno scoperto il mondo, sono entrati anche nel rapporto. Io ho scoperto, non so, gli scrittori partendo dai film, non partendo dagli scrittori, perché l'ambiente da cui venivo era un ambiente pochissimo colto, semi-analfabeta, e quindi il cinema mi è servito a questo. E il cinema aveva, nei migliori ovviamente, questa capacità di rubare dal popolo, dalla cultura popolare che esisteva negli anni 50, ancora c'era la sceneggiata, il circo, i cantastorie, i contastorie, il fumetto, il fotoromanzo, c'era la canzonetta, c'erano i girovaghi, pensate La strada, pensate ai film di Fellini che in qualche modo hanno anche captato queste cose, ma anche Vita da cani di Monicelli. Dentro Monicelli ci sono molte di queste cose, no? Che rubavano da quello che il popolo produceva di sua cultura autonoma, che era una cultura magari dialettale, magari locale, magari contadina, ma c'era cultura di quartieri, c'era i torinesi, c'erano i napoletani, non c'era un'unica situazione italiana prima della televisione che non producesse un suo tipo di spettacolo, un suo tipo di cultura. Ecco. Il cinema recuperava queste cose, e i grandi registi che si ponevano dei problemi, come dire, politici, generali, in qualche modo da educatori del popolo, perché dietro Mario, non bisogna dimenticarlo, c'è una tradizione ottocentesca socialista fortissima, c'è anche De Amicis, no? Però c'è anche Ferravilla, ci sono anche i comici, c'è anche Petito, c'è anche una tradizione popolare molto forte, e c'era il recupero di queste forme dentro il cinema, e era come se Monicelli o John Ford o i grandi registi che hanno parlato alle masse, che hanno saputo parlare alle masse, rubassero dal popolo e riportassero al popolo le sue idee, però, come dire, a un gradino superiore di coscienza, no? Contestualizzate e in qualche modo con un progetto dietro che era sempre un progetto di tipo educativo e pedagogico. Il socialismo di Mario consisteva anche in questo: denunciare la bruttezza del potere, denunciare le viltà collettive per come forma di formazione di una coscienza civile superiore. In fondo la commedia all'italiana nei suoi aspetti migliori è stato questo, e lui questa cosa l'ha capita molto presto. Io credo che l'ha capita facendo per l'appunto lo sceneggiatore per molti anni di tutti i generi del cinema popolare italiano. Lui ha fatto anche delle cose abominevoli e divertentissime, ha fatto Casa Ricordi di Gallone, che è un film peraltro delizioso perché è nelle sue forme naif pure, proprio di raccontare la storia d'Italia attraverso l'opera lirica in chiave appunto da fumetto, insomma, da illustrazione popolare. Ha fatto di tutto, ha fatto i film di Gino Scotti, ha fatto i film di pirati, ha fatto qualsiasi cosa. Ha sentito questo, come l'ha sentito Fellini, che era un suo collega, come l'hanno sentito Age Scarpelli, come l'hanno sentito altri, che lavoravano per questo pubblico, non lavoravano per gli intellettuali. Mario diceva spesso che loro, lui e altri come lui, si sentivano questa responsabilità sulle spalle, mentre i grandi registi, e pensava a Fellini, a Antonioni, ad altri come loro, non erano molti, insomma, quelli che i grandi autori, no, pensavano solo alla loro arte. Il problema di Fellini era quello che io ho da dire, non quello che io ho da dire in rapporto a una situazione, in dialogo con una situazione. E questo ovviamente gli dava, però in tutto questo evitando poi, come dire, il populismo è sempre un'arma a doppio taglio, no? C'è il populismo di Berlusconi e di Bush, c'è il populismo di Totò e di Edoardo De Filippo, insomma, no? E questo altro populismo era una cosa molto importante una volta, era un dialogo con il popolo e un rapporto diretto, forte con la cultura del popolo. Lui questa cosa l'ha sentita sempre come una responsabilità autoriale, no? Forte. Io non sono il grande regista, il grande poeta, il grande artista con le maiuscole, sono un grande artigiano che vuole dialogare con il suo pubblico. Lui diceva sempre, lo dice in questo libro in un modo secondo me incantevole, il mio sogno è di essere ricordato come Goldoni. Goldoni ha scritto 100 commedie, ne vengono ancora rappresentate 6 o 7, se ne ricordano 6 o 7, le altre chi le sa? Boh. E anche se c'è ogni tanto qualcuno che ripesca qualcosa, no, non funziona. Funziona sempre la Locandiera, il Campiello, le Smanie, sono sempre le stesse. Dice, io anche ho fatto 70 film e più, e passa, di questi film verranno ricordati Totò cerca casa, Guardie e ladri, I soliti ignoti, La grande guerra, l'armata eccetera, Brancaleone. L'armata Brancaleone, Il marchese del Grillo, Il borghese piccolo piccolo, sono una decina di film che restano, però che restano nella memoria collettiva, finché ci sarà questa memoria, e comunque negli archivi della storia, restano come dei momenti forti di una cultura di massa, per l'appunto una cultura di massa. La cultura di massa che è stata grandiosa nel corso del Novecento, perché io, come dire, credo che abbia prodotto delle cose straordinarie nel fumetto, in tante forme espressive, nel circo, insomma abbiamo avuto dei personaggi immensi, dico Totò, Edoardo, Anna Magnani, che ne so, Fabrizi, Sordi, insomma cos'erano se non era, no? E ci siamo tutti abbeverati di queste immagini che, no, con le quali dialogavamo e con le quali magari litigavamo anche in qualche modo per distinguerci e per... Però era un dialogo molto forte. Tutto questo è finito in pratica con gli anni 70, con la fine degli anni 70, quando nel mondo la globalizzazione, la mutazione collettiva, non c'è più stato questo dialogo, il popolo non produceva più una sua cultura. La cultura che noi oggi, la cultura di massa di oggi, è una cultura inventata, dico paradossalmente, a Wall Street, dagli uffici studi della grande finanza. Gli uffici studi sono quelli, Spielberg, come vi credete che lavori? Come Monicelli, andando in giro a vedere se ci sono gli avanspettacoli, se ci sono degli attori da pescare, se ci sono dei romanzetti popolari da cui tirar fuori delle idee, dei suggerimenti. No, Spielberg ha un ufficio studi con un sacco di gente super pagata che fa degli studi di mercato, gli psicologi, cioè cosa può andare adesso, cosa non può andare adesso, cosa vendiamo al pubblico, come rincoglioniamo il pubblico, come lo rimbecilliamo a forza di effetti speciali, eccetera, eccetera. No? È fatto tutto a tavolino, è fatto tutto da chi investe nella cultura di massa. La grande editoria è questo, eccetera, eccetera. È ovvio che ci sono delle sacche, ma queste sacche sono sacche o nel mondo molto povero, oppure nel nostro mondo sono sacche di resistenza di piccoli gruppi, come può essere, non so, la libreria Empiria via Baccina 79 di Roma. Insomma, sono piccole cose che sfiorano e sempre di più probabilmente sfioreranno la semiclandestinità, comunque il passaggio di no? L'ossessione che tutti abbiamo in qualche modo nel momento in cui la merce ha invaso tutto e la letteratura è puro intrattenimento, il cinema non esiste più, eccetera, eccetera, la paura è quella di Fahrenheit, del libro e del film di Truffaut, del libro di Bradbury e del film di dovere poi, no, passarsi le cose a memoria tra di noi, perché saremo sommersi dalle mazzuccato, le mazzucchelli, le mazzuccone, non so che cosa, e non leggeremo più Elsa Morante o l'Ortese, se non passando appunto per vie semiclandestine, recitandosi a vicenda tra di noi, non perché il mercato le rifiuterà e non le vorrà più. No? Mario è stato un grande personaggio del Novecento dentro questa storia, dentro una storia della cultura popolare che diventava cultura di massa, ma ancora con delle radici e con delle sostanze fortissime. Di questo aveva, e questa è la cosa che stupiva, una straordinaria coscienza, molto maggiore che lui di tutti i professori universitari che si sono occupati di queste cose, di storia italiana, di letteratura e di spettacolo italiano in queste. Perché? Perché il cinema gli ha permesso di entrare in contatto diretto, anzi direttissimo, con queste basi, con questo basso, no? E l'altra cosa grande sua è questo legame fortissimo tra il comico e il tragico, no? Cioè lui diceva che non può esistere un comico se non ha un fondo nero, ecco, perché e citava questa frase, se l'era trascritta, se l'era copiata nel libro, io ci ho tenuto che ci fosse la fotocopia, come si dice, la trascrizione, con la sua calligrafia, perché era un foglio che si teneva sulla scrivania qui in Via dei Serpenti, che era la sua spiegazione, la sua estetica, rubato da un pensiero di Leopardi. Grande tra gli uomini e di grande terrore è la potenza del riso, contro il quale nessuno nella sua coscienza trova, né trova sé munito da ogni parte, nessuno si trova protetto dalla forza del riso, che ti può distruggere. Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire. Guardate che è un elogio del riso in una società come quella italiana, in una storia della cultura come quella italiana, dove si è venerato fino agli anni 60 di questo secolo Alfieri come un grandissimo e Goldoni come un minore, no? Goldoni fa ridere, quindi non è importante, non è alto, non eleva lo spirito, no? Alfieri che è una palla mortale. Nonostante ogni tanto qualche attore bravissimo cerchi di risuscitarlo, ecco, è una palla mortale, è difficile da recitare, perché è invece la cultura colta, è la cultura colta. Goldoni è la commedia dell'arte. L'altra cosa, poi non dico più niente, ma che era una cosa che a me ha colpito moltissimo di Mario, era l'elogio del cinema come forma di lavoro di gruppo, no? Lui diceva, nella commedia all'italiana io regalavo una scena a Risi, rubavo un attore da L'Attuada, spostavamo De Laurentiis, passava un soggetto da me a Elio Petri, o Pirro lo rivendevano a... Cioè, insomma, era un rubarsi a vicenda, era un'operazione collettiva. Lui diceva, la genialità del cinema popolare italiano era questa. Così come gli altri due grandi momenti che lui vedeva nella vera creatività della storia della cultura italiana erano la commedia dell'arte, dove tutti rubavano a tutti e non c'erano tracce, neanche copioni veri e propri, non c'erano testi scritti, c'erano, no, canovacci, e tutti potevano rubare tranquillamente, non c'era il diritto d'autore. Questa cosa terrificante, no? Il diritto d'autore sulla cultura, non so chi lo dice, qualche grande... lo dice Proudhon, insomma, una delle cose più scandalose che ci siano. La produzione dell'intelligenza umana è di tutti, non può essere, no, vincolata da no, 70 anni in Italia, 100 anni dall'uscita di un'opera in America, cioè queste cose terrificanti e idiote, per cui noi, se vogliamo, no, utilizzare una poesia di Vittorio Sereni, dobbiamo passare attraverso gli agenti, eccetera, eccetera. per fortuna gli eredi di Vittorio Sereni se ne fregano, quindi loro sono più disponibili. Ma ecco, no? E anche nel Rossini. E nell'opera. Nell'opera lì. Lui dice: le tre grandi stagioni della cultura popolare italiana sono state la commedia dell'arte, l'opera buffa, dove anche lì Rossini spostava pezzi da un'opera all'altra, Paesiello li rubava, se li scambiavano. La cantante diceva: la io canto questo perché ci infilo questo perché questo non mi piace. Insomma, era una, no, una operazione collettiva continua in cui il successo determinato dal pubblico poi, come per il cinema, creava i generi, creava i filoni, imponeva, no? Se Catene di Matarazzo con Yvonne Sanson, poi ne ha fatti almeno un'altra dozzina con Yvonne Sanson e Amedeo Nazzari, lo stesso Matarazzo, perché funzionava. E allora abbiamo scoperto la formula, quello che piace al popolo adesso, il marito che ha paura delle corna, la moglie che però è una santa, che però viene vituperata, e eccetera, il Folco Lulli che a Napoli lo chiamano il chiavettiere, quello che pensa solo a, no? Il padroncino cattivo e infido, poi la suocera, poi cioè anche lì una commedia dell'arte, no? Tutti i personaggi fissi che ritornavano in un centinaio, 200 film, quanti sono stati? Centinaio. Più di 100. 120. No, tanti. No, quel periodo lì era negli anni tra 10, 20, 20 anni. Dai film che parlano al cuore di Mario Mattoli. Ah, no, allora sì, fino di più, allora di più. Agli anni 60, sì, sì, sì, il melodramma popolare italiano, sono centinaia di titoli, no? Sì, sì. Allora, c'è quest'idea del questa smitizzazione dell'autore con la maiuscola. Lui aveva un grande rispetto per gli autori, no? Per Fellini, per Antonioni, eccetera. Però diceva: fanno un altro lavoro, io mi sono scelto quest'altra parte qua. E sostanzialmente sapeva di divertirsi molto più lui di loro. Ecco. Perché sul set, qui lei ne sa di più, veniva fuori il capitano di cavalleria, veniva fuori insomma, un uomo che sapeva farsi rispettare, farsi voler bene, ma che era anche lì al centro di una collettività, al centro di una comunità. Questa è anche forse una delle cose più belle del cinema. Adesso non so com'è, ma una volta, seguendo qualche lavorazione, te ne accorgevi, questa transitoria comunità di 2-3 mesi in cui ci si ritrova a vivere in comune con persone che magari non vedrai mai più dopo. Vabbè, l'ha raccontata splendidamente in Effetto Notte Truffaut, insomma, questo mondo qui, però che era il mondo anche di Mario. Sì, ma lui poi sosteneva che il cinema non è un'arte, ma un'arte applicata, che non la puoi fare da solo, la puoi fare soltanto con gli altri. Cioè, non illudetevi che fare il regista, il regista può esistere se c'è lo sceneggiatore, se c'è lo scenografo, se c'è il costumista, ci sono tutti quanti. Ti volevo chiedere una cosa a questo proposito: tu hai lavorato con Mario in diversi film, 7, 8, quanti, forse pure di più, una decina di film, insomma, una decina di film. Ecco, negli ultimi poi i registi, arrivando a una certa età, si concentrano davvero sulle cose essenziali. Negli ultimissimi, per esempio, Le Rose del Deserto, che è un film che Monicelli ha avuto grandi difficoltà a montare, a mettere su, a farselo finanziare, a chiuderlo, a metterlo su, eccetera. Si ha davvero l'impressione di lui che insomma finalmente si sta liberando di questo film, e anche un po' che davvero non gliene frega niente di molte cose, di molti aspetti secondari. Secondo te che cosa gli importava davvero a lui alla fine nel fare non solo quel film, ma proprio nel fare cinema? Perché continua a fare? Qual era la cosa qui? Gli attori, il senso di raccontare quel pezzo di storia nascosto? Lui, quando ha fatto Le Rose del Deserto, voleva raccontare esattamente quel pezzo di storia, e poi voleva tornare in Africa, perché lui aveva sempre questo ricordo, quello l'ha raccontato tantissime volte, la prima volta con Freddo, ma poi l'ha continuato a raccontare di quando aveva avuto la possibilità di seguire due film, uno di Macchetti e uno di Genina. Quello di Genina era Squadrone Bianco, che girarono in Libia, e lui voleva tornare lì, voleva ritornarci, ed era anche convinto di che sarebbe stato veramente il suo ultimo film, di farlo. Aveva fatto un set durissimo, giravamo in condizioni in cui tutti gli altri eravamo esterefatti, si ammalavano tutti, lui andava avanti sperando come se restarci, restarci, insomma. Però la sua urgenza era ritornare lì, racchiudere un pochino il cerchio, riraccontare la storia dei morti di fame, mandati a combattere per niente, che però avevano poi questo spirito d'avventura, perché c'è poi i ragazzi, quando li mandavano alla guerra, io me lo ricordo, in fondo pensavano gireremo il mondo, siccome era stata una sola potente l'entrata in guerra della Seconda Guerra Mondiale, lui proprio diceva questo, che ancora ci andavano speranzosi, poi si trovavano lì senza i mezzi, senza sapere che cosa succedesse, senza rendersi conto di quello che stavano facendo. Lui poi, tra l'altro, questa cosa che dicevi di Genina, di Macati, che era uno di questi registi apolidi internazionali che c'erano anche in Italia in quel periodo, super intellettuali eccetera, la usava come esempio per raccontare com'era il suo cinema, come voleva che fosse il suo cinema. Cioè Genini era uno che sembrava che girasse per caso, che sembrava che dicesse sì, vuoi fare quello? Sì, no, però puoi fare anche quell'altro. Macati invece stava lì con gli stivali, col megafono, a urlare, a dirigere le comparse. Poi alla fine, i film di Macati facevano schifo, quelli di Genini avevano un equilibrio, una perfezione, un rigore nell'artigianato, ma anche nella cura visiva, in cui si vedeva che davvero c'era quasi una specie di tecnica che lui... Era un autoritratto anche quello di Genina, credo, della sua voglia di essere un regista di quel tipo lì. E poi, dicevi tu, dei morti di fame. Ecco, questo credo sia un'altra cosa che Monicelli ha sempre fatto nella sua commedia. Una delle caratteristiche della commedia all'italiana è il suo essere una commedia in parte borghese, cioè di una nuova borghesia che sta nascendo, raccontare il passaggio, la nascita di una nuova borghesia, però di non esserlo pienamente. Cioè la differenza, credo, anche dalla commedia americana è quella, che quella della... raccontata dalla commedia italiana è una semi-borghesia, e in una prima fase il fatto di non essere pienamente borghese è il suo lato positivo, è una commedia popolare. Nella seconda parte invece il fatto di non essere una vera borghesia matura è quello che la rende forse più orrenda delle altre borghesie, cioè il fatto di essere un borghese piccolo piccolo, appunto. Credo che questa sia una delle cose che rendono il cinema di Monicelli degli anni 80 molto più amaro di quello degli anni 50. Se tu dovessi dire di questi ultimi 27 anni in cui lui ha fatto cinema, che possono essere anche la carriera intera di un regista medio, qual è il film che secondo te di cui lui era più contento e quello in cui si era ritrovato di più? Perché ce ne sono altri che evidentemente sono fatti invece in maniera molto più corriva, a parte l'ultimo, che credo che davvero fosse un film a cui lui teneva molto. Lo voleva fare. Perché ci sono delle cose, anche i Picari, non necessariamente quelli riusciti meglio, ma quelli Parenti cui lui Serpenti, credeva. Credo Parenti Serpenti fosse stato l'ultimo film di cui lui era veramente soddisfatto, anche perché si era staccato dal suo gruppo di sceneggiatori, aveva letto questo soggetto di Carmine Amoroso che gli piacque moltissimo, e qui voleva anche lavorare, perché lui era sempre curioso. Dopo un po' si rendeva conto che il suo gruppo, figura eccellente, stiamo parlando del Gotha, del cinema, la Suso, Age Scarpelli, Benvenute De Bernardi, però lui voleva cominciare a dire, quelli ormai hanno già detto quello che dovevano dire, e quindi quello fu un film importante anche perché segnò l'affrontare un soggetto non del suo solito gruppo di lavoro, e fu l'ultimo film molto... Sì, no, tra l'altro lui lo vedeva come una sorta di dittico con la Grande Guerra. Io ho raccontato la Prima Guerra Mondiale, la Seconda in Italia non l'ha raccontata nessuno, la guerra, non gli effetti della guerra, perché quelli paesà, Germania hanno zero, per carità, ci sono dei capolavori, Roma città perde dei capolavori, non solo di Rossellini, ma raccontare proprio la guerra guerreggiata, il fronte, ecco, quello l'ha raccontato. Ci sono solo dei film fascistoidi nella storia del cinema, è un po' nostalgici. Lui voleva raccontare quello, il libro di Tobino gli sembrava perfetto perché erano i poveri cristi e le mezze seghe della dirigenza, no? Della dirigenza, i generali, diciamo, e raccontare questo dislivello, questa storia gli premeva molto. Però c'è un altro film, oltre a Parenti Serpenti, che è un film molto crudele, sullo sfascio della famiglia, no? Perché il tema vero era quello, insomma, non c'è più, la famiglia non serve più, questo ce l'aveva molto, molto presente. E speriamo che sia finito. Perché invece c'è lo sforzo di un regista, umanamente, anche nel suo privato, secondo me, molto maschilista, è un filino misogino, e tu magari omofobo più che misogino. Ecco. comunque paventato da certe novità, da certe novità un maschio del, italiano del 1917, insomma, quindi era già tanto, 15, insomma, quindi insomma. E lui si invece fa uno sforzo proprio suo, enorme, di capire cosa sta cambiando nell'universo femminile, no? Si circonda di donne, fa un film dove i personaggi, non solo le attrici e i personaggi del film, ma la sceneggiatura, cioè cerca il conforto di un ambiente femminile, e secondo me frega totalmente uno dei film più brutti, Fellini, è certamente La città delle donne, che è un film che, volendo capire le donne, è uno dei film più misogini che ci siano, è un film paradossale, perché no, gli è andata male a Fellini con Giulietta degli spiriti, perché voleva raccontare la moglie borghese, diciamo, è un film un po' fasullo, pieno di cose deliziose, perché c'ha dei momenti che a me ancora mi fanno piangere, le bambine che ballano il twist sull'Aia, a me che sembra Rubino, le vecchie vignette, no, de Liberty, insomma, c'ha dei brani bellissimi, ma è un film fallito sostanzialmente, e La città delle donne ancora in modo più macroscopico, mentre Mario c'è riuscito con Speriamo che sia femmina, che è, insomma, è un film quasi unico nella storia del cinema italiano. Questo va però collegato anche a degli sforzi precedenti suoi, perché in fondo Le infedeli, un film fatto con Steno, che è il primo film insieme a Cronaca di un amore di Antonioni, che racconta la borghesia. Nel cinema italiano c'era solo il popolo, no? C'era solo sottoproletariato, proletariato, contadini, ma non c'erano impiegati, artigiani, ma non c'erano gli operai e non c'erano le donne, la condizione femminile, anche se non c'era la borghesia, le donne c'erano in tutto il cinema italiano, allora c'erano moltissimo. La borghesia ha cominciato lui a raccontare. Comunque, Speriamo che sia femmina, che è un film, mi pare, dell'85. Sì. Lui era una sceneggiatura che aveva da 15 anni, che non riusciva, che non li facevano fare. Sì. Fu di Clemente, che nonostante fosse un buzzurro, però intuì che poteva andò benissimo, tant'è vero che subito fece i Picari. Tanto, involontariamente, a ripensarci oggi, è un film che anticipa in bene invece tutto un filone di film borghesi al femminile, magari fatti da donne, che sono invece pessimi, come c'era, non so, da Cristina Comencini, o cioè tutto questo filone che invece però viene da lì, secondo me, cioè il primo in qualche modo è stato un apripista di quel tipo di, ma perfino le soap, no, sono state tutte delle sì, vengono dopo. Anche perché poi lui c'ha una cattiveria in parallelo, per esempio nel racconto dei maschi di quel film, bello. Qui c'è Paolo Hendel, Giuliano Gemma e Blié, che sono tre deficienti, insomma, ci mette anche un Blié lo perdona, Giuliano Gemma. Sì, no, Giuliano, e quindi il dà percioni, proprio ci sì. Pensa il per cui davvero da un lui riesce a raccontare questo proprio perché dall'altro lato carica è sempre politicamente scorrettissimo, quindi carica diventa il com'è il contrario del misogino, non so come, non esiste e non per caso un termine inverso, ma quel film lo è in qualche modo, cioè, no, il termine inverso uno pensa a Don Giovanni, che non è giusto. No, al contrario di misogino non esiste. Perché anche Don Giovanni è un po' misogino. No, no, non Ginofilo, pensavo uno che odia i maschi, come dice? Omofobo. No, i gay, no. I gay o i suoi simili anche, etimologicamente. Esatto, non c'è, ragazzi, invece qua c'era una ragione, la parola non c'è, quindi si vede, esatto, che non, si vede che non c'è nessuna. Misantropo era l'uomo riguarda maschi e femmine, riguarda l'umanità nel suo complesso. E il fratello l'hai conosciuto? Quale? Furio? Lo scrittore. Furio l'ho conosciuto, sì, molto fugacemente l'ho conosciuto a Viareggio, dove quando siamo stati bello quel romanzo che ha scritto. Il romanzo era bellissimo, l'aveva scritto da giovanissimo, poi non volle scrivere più niente, faceva il traduttore. Non volle più scrivere niente, nonostante le case editrici gli chiedessero di farlo. Poi loro con le case editrici avevano grandi rapporti, perché sono parenti dei Mondadori, avendo deve essere un carattere completamente diverso. Chi? Tra Furio e... No, meno di quanto, sono tutti simili Monicelli. Si fanno. Perché poi lui veniva in realtà da una tradizione di borghesia intellettuale, come dire, la cosa da ricordare è questa, che mentre molto spesso i registi colti italiani, a cominciare da Fellini, avevano delle origini personali e credere molto basso, dall'avanspettacolo, dalla caricatura eccetera, lui che invece si era voluto fare regista popolare veniva da una tradizione. Quando qui racconta chi erano i suoi amici e compagni di liceo, dice sì, c'era Vittorio Sereni, c'era Remo Cantoni, c'era, cioè, i grandi Antonio intellettuali Pozzi, c'era Antonia Pozzi, cioè c'erano i grandi intellettuali italiani del dopoguerra, c'era Cesare Garboli, c'era lui veniva da quel cotè lì, quindi, e poi è una sua scelta, Cassola c'era, quando poi lui Cancogli, dice la sua voglia di essere quella cosa, la sua coscienza viene da quello, cioè lui è uno che sceglie di fare di essere quel tipo di narratore lì, non è che ci arriva per caso, no? So, ci sono delle... perché, ovvio, a quel tempo lì c'era De Sica, Visconti, Fellini, tanto per noi proprio dice, o di inventare un'altra cosa, o lavorare, ma è vero, immagino che sia vero. Cioè, sì, tra l'altro io di questo libro sono molto orgoglioso perché con Mario avevamo deciso proprio di comune accordo di non parlare di Totò, di Sordi, di Gassman, di Tognazzi, della Vitti, cioè degli anni 60, perché su quello lui era stato intervistato le migliaia di volte, quante volte ha raccontato le stesse aneddoti su Totò, su Sordi, infinità di volte, per cui si è detto parliamo del periodo precedente e parliamo di massimi sistemi, la storia d'Italia, il comico, queste cose qui, in modo sempre molto frammentario, perché poi si cominciava un discorso, Mario deviava su altre cose, gli citavi, non so, il nome di un vecchio attore che faceva una piccola parte e si scatenava nel raccontare aneddoti su quel vecchio attore, insomma, e sempre cose estremamente significative, però queste conversazioni erano belle perché man mano che io, come dire, un po' per ragioni di età, ma comunque avevo 20 anni meno di lui, 20 precisi, quindi non è che sono la stessa generazione, però un po' quello, un po' per aver fatto quel librone sull'avventurosa storia del cinema italiano, un po' per essere stato un cinefil tradizionale in gioventù, per cui facevo le schede di tutto, le filmografie eccetera, ne sapevo anche non solo di cinema, anche un po' di storia della letteratura, di queste cose qui, per cui con me si trovava a suo agio perché gli suscitavo dei ricordi, no? Gli dicevo, ma ti ricordi in quel film c'era Antonio Centa? Ah, Antonio Centa è quello che Primo Carnera, la mafia americana, cioè, e partiva con gli aneddoti su Antonio Centa. In qualche modo, queste cose erano delle occasioni, questi nomi buttati lì erano delle occasioni per ricostruire continuamente un'epoca che è poi stata quella a cui lui era più affezionato. Lui, i suoi ricordi migliori non sono neanche quelli degli anni 30 e della guerra, di cui parlava anche abbastanza poco, non c'è tante interviste in cui parla della sua esperienza bellica, che pure è stata molto intensa e anche molto sofferta, ma sono quelli gli anni dal 45 al 60, grosso modo. Cioè lui dice che quelli sono stati gli anni migliori dell'Italia. Siccome anch'io ne sono sempre stato convinto, perché erano gli anni in salita, gli anni della ricostruzione, gli anni in cui, nonostante tutto, perfino Togliatti e De Gasperi andavano d'accordo su una certa idea di società, una certa idea d'Italia, il bisogno di alfabetizzazione, il bisogno di industria, il bisogno di servizi, il bisogno di libertà di spostamento sul territorio nazionale, di emancipazione delle donne, eccetera, eccetera. Anni, no? Anni di speranza, di grosse speranze, due soldi di speranza, diceva il titolo del film di Castellani, peraltro bellissimo, e c'era questo senso di partecipare a una epoca che collettivamente portava l'Italia in avanti, insomma, che dava, e questa cosa lui ci credeva moltissimo, e tutto quello che alla fine si diceva finiva per raccontare quest'epoca. Ci sono in questo libro alcune cose, se vi capita di leggerlo, quasi commovente nella descrizione di Roma di com'era piccola la Roma dei cineasti, la Roma degli intellettuali, no? Allora c'era quel gruppo lì che faceva capo, però spostarsi da, dice lui, da Via Nazionale, da Via Nazionale a Piazza del Popolo, era un'impresa. Ah, dalla galleria ancora? Dalla galleria a Via Nazionale, erano due mondi separati. Erano due mondi separati, con ambienti separati, là, eccetera. Insomma, era raccontare questa Italia, o raccontare... Galleria Alberto Sordi. Che adesso si chiama Galleria da Piazza Colonna, capito, al Palazzo delle Esposizioni, era un'avventura. Non a caso, la gente non se lo ricorda, ma insomma, quelli lì erano chiamati quartieri alti. Il libro di Patti, Quartieri Alti, non si riferisce a Via Veneto, cioè ai ricchi, eccetera, si riferisce semplicemente alla parte alta della città, dove, se leggete le memorie, non so, di Jemolo, di altri, insomma, quelli che abitavano giù andavano fino all'Esedra a prendere il gelato, a prendere il fresco d'estate, era la collina dei Romani. I Romani stavano giù, stavano in basso, stavano in mezzo ai colli, non sui colli. Capito? Era già un, ecco, raccontare questo mondo, raccontare il giri di i legami che c'erano tra di loro, no? Tra registi, scenografi, comparse, tecnici, eccetera. Era un sottomondo di una vivacità incredibile e pieno anche di libertà rispetto all'epoca. Ovviamente il mondo del cinema era un mondo dove i soldi c'erano, perché il cinema il cinema italiano, si facevano 350 film l'anno in certi anni, ragazzi, e che erano film che poi avevano le prime visioni, le seconde visioni, le terze visioni, i cinema parrocchiali, le arene estive, eccetera, eccetera. C'erano ancora perfino i carri di testi con col telone che li portavano in giro per le fiere nei paesi dove non c'erano sale cinematografiche. C'erano i soldi perché questo cinema vendeva molto, piaceva molto, era lo strumento fondamentale di acculturazione di tutto un popolo, e quindi i produttori erano disposti a tutto, c'era l'avventura continua, c'era la scoperta della possibilità di arricchirsi decentemente divertendosi da matti, e anche questo è significativo di un'epoca, perché, no? Poi noi pensiamo sempre alla guerra fredda, Pio XII, sì, è vero, però la fame, la miseria, tutto vero, però quel tipo di entusiasmo che c'era allora io non l'ho mai più vissuto, neanche nell'epoca del 68, insomma. Gli anni 50 in Sicilia a far la fame con Danilo Dolci erano anni entusiasmanti, perché si sapeva, eravamo convinti che avremmo vinto, cioè che l'Italia sarebbe migliorata grazie ai nostri sforzi, che è esattamente l'opposto di quello che succede oggi, in cui sappiamo che tutti i nostri sforzi non servono più a niente, non serviranno più a niente. Adesso non so se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda, visto che già Remo Girone aveva chiesto alcune cose molto precise. No, ma poi tu hai anche conosciuto e frequentato Mario, quindi... Sì, non molto, un pochino. Vabbè, sì, sì. Poi da bravi monticiani, insomma, sì. Mario lo si vedeva... Si vedeva molto in giro. Sì. Molto in giro. Sì. Io no. Come? Non hai altre curiosità? No, io altre curiosità ne ho. E allora dai. No, volevo far parlare loro. No, per esempio dal libro, questa cosa che colpisce molto di Mario è questo suo rapporto col fascismo, che anche a lui ha fatto capire molte cose dell'Italia. Cioè, in realtà per lui una delle radici da cui partire rimane, nonostante tutto, il rapporto col fascismo, che lui vede in maniera molto sfaccettata, molto precisa, perché legge anche la società italiana di quegli anni, non legge tutto monoliticamente, ovviamente sotto il segno della dittatura, però gli sembra davvero una delle cose che bisogna capire per capire gli italiani. Credo che questa sia una cosa che poi lui si è portato anche dentro, anche se in realtà non ha fatto molti film sul fascismo, credo che a parte però ha fatto Vogliamo i colonnelli, che però sul fascismo ha fatto, okay, anche Il borghese piccolo piccolo, ha fatto, come dire, ha portato l'antropologia, cioè quella visione degli anni 30 l'ha portata in una serie di racconti. Certo, Guglielmi Coronelli è forse l'unico. Lui teneva moltissimo, infatti era arrabbiato che non lo facevano vedere mai. Cioè, adesso vado solo se fanno Guglielmi Coronelli, poi invece andavo uguale. I compagni. Però, è che sono due film. Però quello facevano di più. Sono due film straordinari e unici, cosa che ha tentato soltanto lui, perché sia Vogliamo i colonnelli è l'unico film che tenta di raccontare quando tutti i registi dell'area sono nel pallone, nell'epoca, nella confusione, durante quegli anni lì in cui non capisci cosa sta succedendo. Vedi tu dall'alto al basso, vedi che insomma... Cioè, in periodo di paure golpiste, lui fa un film in cui li svillaneggia, proprio in cui, ne fa tra l'altro intuisce delle cose che poi si sono rivelate totalmente... Sui golpisti, insomma... È una, su un golpe alla greca, diciamo. No, di Giulio Vallo. Che poi Valerio Borghese. Che poi è il golpe borghese. Sì. Cambia con i nomi, cambia con Tognazzi, con film bellissimo. Mentre all'epoca tutti talmente... Vogliono prendere la Rai. Sì, vogliono prendere la Rai, con i carri armati di notte, si cadono sui cose, ma ci sono una serie di... sbagliano le parole d'ordine. La cialtroneria della destra. Vista come... Tra l'altro appunto nel 74, che è l'anno in cui questa cosa arriva al massimo, perché sono proprio l'anno di massimo... tensione e terrore di queste cose, con i registi italiani che tutti che la buttano in metafisica, perché c'è, non so, Petri che progetta Todomodo, Rosi con Cadaveri eccellenti, cioè tentano tutti la grande metafora politica o al massimo storica italiana allo San Francisco, tutti cercano di raccontarla, ma da e lontano, perché invece poi la prende di petto totalmente con l'avanspettacolo. Questa è, devo dire, una cosa ancora per raccontare. Totalmente, che fa il paio invece con un film invece altro dei suoi più belli, agghiacciante, che è Il Borghese Piccolo, un film straordinario, e di cui a me ha sempre colpito una cosa, cioè quello che Il Borghese Piccolo è del 77, mi ha sempre colpito tantissimo, che quando Alberto Sordi diventa serial killer, dicevo loro alla radio, la sua prima vittima, quello che lui decide di uccidere facendosi giustizia da sé, il borghese italiano, è il figlio di Mamma Roma. Cioè Ettore Garofalo, quello che si vede lì per strada, lui decide che diventerà un borghese assassino, e quello che decide di uccidere per primo, il borghese fascista del 77, sarà il figlio di Mamma Roma. Io questo ho trovato una cosa veramente, non ci avevo fatto caso quando l'ho visto le prime volte, è lui, Ettore Garofalo, il bambino che fa il ragazzino di Mamma Roma, lo stesso attore, lo stesso... Lui si vede di sfuggita, se uno non ha presente bene Mamma Roma neanche se ne accorge, ma l'idea che lui scelga quello, che lui uccida, insomma, il figlio, sì, che si vede come mantegna lui, quel ragazzo. No, no. Crociani era il ragazzo, il figlio. Alla fine, quando decide di fare il serial killer, ucciderà, prende un passante, quel passante che vedi per 3 secondi è il figlio della Magnani. Cioè l'idea che Sordi del 77 uccide il figlio della Magnani è un'idea di una ferocia, è terribile, solo che appunto è appena accennato, non è un sì, e non è, però muore una seconda volta, ucciso da, lo fa morire una seconda volta, ucciso da Alberto Sordi, insomma, che la trovo una cosa anche lì tremenda, non quello che lui uccide di botte. Come? Secondo te non ci ha pensato, stava lì, però è una cosa che veramente a me mi ha sicuramente non se n'è accorto Sordi, forse almeno Moliceni. No, c'era un aspetto anche un po' cinico di Mario che a me per esempio un pochino mi irritava, perché quando diceva, per giustificare i brutti film, che ha fatto anche dei brutti film, Mario ha fatto anche alcuni brutti film, diceva, ma sai, è il caso, no? Dico, come il caso? Uno il caso lo controlla, se fai il regista devi scegliere, devi fare, eccetera. Dice no, perché sai, all'ultimo minuto ti salta un attore e devi pigliare un'altra faccia. Non puoi girare, per esempio nel finale di delle Rose del Deserto, non potevi girarlo come voleva lui perché non c'erano più soldi. L'ultima scena la rimediò inventandola lì per lì perché non c'erano più soldi per farla come avrebbe voluto. Cioè ci sono degli imprevisti che rendono un film... riuscito oppure fallito. Questa è una cosa che però la dicono i grandi registi americani, quelli che lavoravano per la Fox, per la Metro, per la Paramount, cioè che dovevano in qualche modo seguire anche i dettagli della produzione, non erano autori che potevano controllare al 100% la loro opera, erano pochissimi quelli, forse solo Lubitsch in quegli anni, negli anni. Però appunto la stessa cosa dice John Ford, dice io ho fatto anche delle puttanate, ho fatto un film con Shirley Temple in India contro film colonialista terribile, cioè, qui si vergognava, ci sono anche dei film, è un, anche questo però alla fine diventava un discorso, come dire, che smonta l'idea dell'autore, no? Inventata dai francesi con la maiuscola, no? E ti riporta alla realtà dell'industria del cinema. Sì, ma per esempio, è un'industria. C'è un film che gli è venuto piuttosto male, che è Cari fottutissimi amici, non so se ve lo ricordate, con Villaggio, che è la storia di questa compagnia di... Villaggio mette su un gruppetto di ragazzi, proprio immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, decidono per fare i soldi di fare con un carretto, di andare in giro per i paesi della Toscana a fare gli incontri di box. E lui a questo film teneva moltissimo, ed era proprio quello in cui avrebbe voluto raccontare quell'Italia che si ricostruiva e si ricostituiva. Lì però ci fu il suo direttore della fotografia che era malatissimo, stava per morire. Lui lo volle fare ugualmente, era Tonino Nardi, un grandissimo direttore della fotografia. Il fatto di non poter dialogare, non poter chiedere a Tonino quello che... gli ha fatto sbagliare il film. Il film non ce l'ha fatta a farlo, perché gli è mancato completamente, era insopportabile, nessuno sopportava Monicelli di quel film, era una bestia e stava evidentemente a un gran disagio. E poi parlando gli ho detto, perché c'era perfino Villaggio che proprio è pronto a tutto, quando lo andavo a chiamare dice: ma sei proprio sicuro che devo venire? Sei proprio sicuro? Perché sai che dopo succede un patatrac, cose tremende. E il disagio era quello, proprio perché, per dire, il suo lavoro era sempre un lavoro collettivo, da solo non era riuscito a farlo, per quanto fosse molto chiaro quella che era la sua idea. C'è un film che poteva essere bellissimo, un po' felliniano, quello con Goldie Hawn. Gli appiopparono questa attrice che aveva vinto un Oscar. No, non era Viaggio con Anita. Viaggio con Anita. Che era un'idea di Fellini in partenza, quella, sì. E che è un film fallito perché c'è un'attrice americana che l'impongono, aveva vinto un Oscar. E era Giannini. E era un disastro totale, che voleva recitare, insomma, all'americana con le... scusa, racconta l'aneddoto di Shelley Winters, dai, che... Qual è quello di Shelley Winters? Shelley Winters è Alberto Sordi sul Borghese Piccolo Piccolo, che è uno dei pezzi più divertenti del libro. Racconta la tua, allora. Vabbè, io poi ce la do. No, girando, per dire la genialità di Sordi, no? Shelley Winters, che sapeva l'italiano, aveva sposato Gassman, aveva dei figli italiani, grande attrice, straordinaria attrice, però... attrice Actor Studio, nata sotto, no, con una scuola, Strasberg, eccetera, eccetera. Nelle scene più drammatiche lei si preparava con una radiolina ascoltando e mormorando canti yiddish e si metteva in un angolo, esigeva il silenzio e la scena più drammatica del film, quando Sordi deve dire a lei, e lei diventa paralitica, insomma, che il figlio è morto, insomma, la scena la più drammatica, forse una delle due o tre più drammatiche del film, più forti, lei si prepara in questo modo e Sordi la guarda ridendo con uno sfilatino in bocca e magna appoggiato e lei si incavola, dice: ma com'è possibile, tu una scena così terribile ti prepari così? Dice: beh, tu c'hai il metodo Actor Studio, io c'ho il metodo sfilatino. E poi naturalmente poi nel momento di girare danno tutti e due il meglio, insomma, no? No. Anche lì il mistero dell'attore, questa cosa è una cosa a cui Mario era attentissimo, no? Mario sapeva, è riuscito a tenere insieme dei mostri sacri, no? Dico Totò, Fabrizi era difficile, non era un attore facile da controllare, Sordi, Gassman, insomma, veramente i mostri sacri dello spettacolo italiano, con lui erano, no? Lui li sapeva prendere, cioè aveva questa capacità di entrare in sintonia con l'attore che pochi hanno, perché spesso è un conflitto. Lui in qualche modo trovava, no? In questo anche credo un po' come metodo americano hollywoodiano, insomma, cioè l'attore è l'attore, ha la sua dignità, la sua storia, la sua faccia, ha la sua presenza fisica, è lui anche che deve decidere cosa fare, non solo io. Se l'ho scelto è perché è così e cos'ha, e non, e quindi so che, e quindi gli lascio, no? Sì, sì. Lo rispetto, discuto, però poi lui ma discuteva poco, come c'è già tutto scritto. Quando gli chiedevano vorrei capire il personaggio, leggi, è tutto scritto, è tutto scritto. Poi, poi si divertiva moltissimo, mi ricordo Parenti Serpenti, che c'era Paolo Panelli, il quale sosteneva di essere un attore alla Robert Mitchum, con pochissime espressioni, assolutamente, proprio lui non faceva una cosa in più. Io recito come Robert Mitchum. Allora quando doveva entrare Panelli, lui già gli faceva Mitchum, e arrivava Panelli vestito da carabiniere. Mitchum, era lui che faceva 7.000 facce. Poi sì, in realtà fa 20.000 faccette, Panelli, non è vero? Però mi ha convinto per la recitazione alla Robert Mitchum. Male. Ma rispetto agli altri, spesso si parla di quei registi lì, della commedia italiana come di un unicum senza fare, poi si sa che Monicelli forse è quello che è rimasto di più nella memoria, ma la sua... Secondo me Panelli scherzava. No! Ti sbagli! E comunque se scherzava peggio per lui, è finita malissimo, perché sì, ne ha dovuto pagare lo scotto per te. No, diciamo, lui rispetto a Risi, è come ci... Qual è la peculiarità proprio sua, perché molte di queste cose che abbiamo detto valgono anche per altri di loro, insomma, valgono anche per Comencini, anche l'origine socialista, no? Valgono per Risi, credo che però per esempio con Risi ci siano delle differenze. Comencini è più sentimentale, Risi è molto più cinico, molto più cinico di tutti forse. Monicelli è la giusta mediazione in qualche modo tra loro due, non si lascia mai commuovere troppo dai personaggi e dalle storie. Comencini no, si no? Si commuove nei compagni, il film in cui si commuove forse perché i compagni perché appunto era il socialismo la cosa in cui lui aveva creduto di più. D'altronde il personaggio di Mastroianni è ancora uno dei personaggi più belli, credo, no? Mastroianni nei compagni, no? L'anarchico socialista agitatore che gira l'Italia a aiutare quelli che si muovono per dargli un po' più di è bellissimo. Anche nei suoi momenti di ambiguità. Con uno dei finali più belli, perché non mi ricordo, c'è i due fidanzati, che si, insomma i due che si lasciano, che è Renato Salvatore, sì. Lui va e lei resta, e lui sul treno, lei gli dice scrivimi, e lui gli dice ma se non sai legge, e lui dice, e scrivi lo stesso. Cioè, anche lì c'è un'idea di Italia, di popolo, di storia che è veramente... Beh, anche quando Romolo Valli scrive le lettere per il soldato, che dice sono stufo di scrivermi con un curato di campagna tutte le lettere d'amore con la fidanzata. Scusate, questo aneddoto che io mi ricordo di aver sentito sul rapporto Monicelli-Lusso. C'è nel libro, sì. Ma fu un rapporto fallito, credo, per colpa della perfida, perfidissima Joyce Lusso, donna antipaticissima, vi assicuro. Con Joyce Lusso che lo caccia dalla via. Sì. Ah. Perché consideravano La Grande Guerra, era un film comico, Sordi e Gassman, come si può raccontare Joyce? Lusso probabilmente era... Anche perché poi ti ricordi Lusso stesso invece davanti al film di Rosi. Stesso davanti al film di Rosi, tratto dal suo libro Uomini Contro, si sfogò dicendo a Rigoni Stern, me l'ha raccontato Rigoni Stern, dicendo ma noi qualche volta ridevamo anche. Cioè lì il film è tutto cupo. Era gente di 20 anni che tra una morte e l'altra, tra una battaglia e l'altra, comunque una voglia di vivere veniva comunque sempre fuori, insomma. Che lo cacciò da casa. Sì, sì, la due sulla porta. Sì, poi dice, parlava in terza persona, chissà, no, poi dice noi, cioè, cosa c'entrava lei? Mi ha mandato via dicendomi, noi non siamo d'accordo, fate quello che volete, non vogliamo soldi. Cioè, perché poi parlava in terza persona? Vabbè, quelli sono. Diceria De Montore, avevamo fatto un film una volta. E, sì, tutto girato all'ospedale, quello lì della tubercolosi, che stava dove stava. Fornani. Un reparto abbandonato del Fornani. E poi abbiamo fatto la prima Comiso. E c'era Bufalino, ha visto il film e ha detto, quando da regista, ha detto, scusa, ma un'inquadratura a un certo punto del cielo. Stava sempre dentro, fai una notte stellata, la puoi mettere, dice, guarda, uno dei malati alza lo sguardo e dice un dottore. Perché era, pure a lui gli era sembrato lo stesso, tutto dentro il sanatorio. Quest'idea appunto che il comico e il tragico non possano andare insieme, vanno insieme. I grandi Molière vanno insieme, Shakespeare vanno insieme, ha voglia. Però è una grande, anche una Dante grande, vanno insieme. È anche una grande cosa che hanno tirato fuori loro in quegli anni rispetto al cinema americano, a quello, perché loro per esempio le commedie che finiscono male, col protagonista che muore, che è una cosa che sarebbe stata inconcepibile nelle commedie, già anche in quelle italiane di qualche anno prima, ma in quelle americane, cioè l'idea che alla fine del Sorpasso o alla fine di Tutti a caso o a metà dei Soliti ignoti che muore in scena, si vede uno che muore schiacciato subito, carotenuto, si vede quello schiacciato dal coso, cioè dei momenti di cose, sono davvero una delle cose che hanno fatto anche la fortuna del cinema italiano di quegli anni, cioè, quanti ce ne sono che finiscono male di commedie, che a rigore la commedia è una delle prime cose che dovrebbe finire bene. E poi che non erano commedie sentimentali, nessuna di quelle è una. La commedia di solito è la storia d'amore, i due giovani che si devono sposare, nessuna di quelle commedie di quegli anni ha questo, tutti uomini maturi e anzi già un po' stanchi, no? Anche un po'. Penso a Risate di Gioia, un altro film che è sfortunatissimo di Monicelli, è molto bello invece. Anche, sono anche molto amari certi film di giovani, insomma. Ho rivisto di recente Giovani mariti di Bolognini, che è un film molto bello, è un film estremamente malinconico su una generazione che si prepara a entrare nel miracolo economico sapendo che verrà fottuta dal miracolo economico, insomma, che, no? Che è un nuovo tipo di conformismo che si sostituirà al vecchio, insomma, non una liberazione ma un'altra condanna. E io la conoscevo bene, insomma, cioè. Vabbè, bene, io sì, signore, grazie alla. Domani.